ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla parte tecnica Simone. Une. Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati a tutti i simpatici amici ascoltatori di Piazza Alta. Siamo ancora noi per una nuova puntata. Simpaticissimi amici, benvenuti a questa nuova ed effervescente puntata di Piazza Alta. Era l'unico così, pronto di fatto, così, Marzi, perché... Così, stasera sarai la nostra bandiera. Ho tante cose da dire, ma, tante cose da fare, tante cose da lettera, baciare e testamento. Va bene, ottimo inizio. Domenica andate a votare. Oh, vabbè. Vieni a fare un giro, il mio guardaroba è tutto qui. Stai in una valigia sempre pronto a partire. Tu dammi il segnale giusto e il benvenuto. Nel peggiore suono della tua vita. Qui non ci sono capi, non ci sono professori. Sono solo dittatori della musica, del lavoro, dell'anima. Folk rock a boom. Pesanti di sonno, milioni giorno di passioni, sulle tue spalle tutto il peso del mondo, io mi difendo da solo e aspetto che passi il mio nemico a galla e con lo sguardo spento, se ci credi a volte. Rockaboom, questo è il brano che apre la scaletta di questa sera. Loro sono il Pan del Diavolo, L'album, che ha lo stesso titolo, uscirà il 3 giugno, ma il nostro Simone ce lo presenta in anteprima. E tra l'altro il Pan del Diavolo arriveranno, cioè apriranno il loro tour ad Arezzo il 31 maggio. Quindi tutta la roba dopo, è fatta in casa. Ecco, dopo la sagra del Ciambellino ci prepariamo anche per il Pan di Zenzero. Beh, sì. Chi volesse mandare qualche ricetta qui a Piazza Alta sul nostro sito, no, sulla nostra pagina Facebook, ma c'è anche il panforte più avanti. Comunque, Simone, visto che stasera sei in splendida forma, ma perché non parlare anche del pan pepato? Approfittiamo di te. Di dove sono questi amici? Il Pan Diavolo sono siciliani. Siciliani, sono siciliani. Ok, bene. Ecco, Simone ha parlato. No, ma vogliamo dire che Simone stasera ha fatto un grande sforzo, esatto, perché, per essere qua, perché come oggi dire, nel pomeriggio un pochino infortunato. Oggi nel pomeriggio un piccolo colpo della strega l'ha bloccato, ma nonostante tutto è qui con noi grazie alla puntura a supportarci della nonna. Ah, grazie alla puntura della nonna, quindi salutiamo anche la nonna. Ecco. Ognuno saluta a modo suo. E chissà come ci sta ascoltando la nonna, Simone, ma ce lo dirà Marzi, come ci ascolta la nonna? Ma sicuramente con tanto affetto, guarda, perché sentire un nipote che sulle onde radio sulle FM 101.2 bravo, oppure visto che è una nonna, so che è tecnologica e ha microonde, c'ha un sacco di, vero? C'ha il forno a legna. Ecco. Ci può ascoltare anche tramite web. Ok, in streaming, quindi nel sito www.radiof.it. Grande. Oppure anche scaricando le nostre app per Android and Apple. Yeah, of course. Radio F. Sì, ma come si chiama la app? Ma guarda, questa per contratto, per contratto sembrava, mi sembra che la dovessi come si chiama? L'app si chiama 1976, ma i nostri ospiti, abbiamo degli ospiti fenomenali stasera. Aspetta, la app si chiama Radio F, non era difficilissimo, però capisco che sono solo 24 puntate che lo ripetiamo, quindi non è che puoi apprendere proprio tutto. Il pathos di questa cosa, no? Perché vuoi tradire quello che... Ma chi, per l'amor del Dio, di cosa parliamo stasera? Ma ricordiamo allora anche la pagina Facebook. Sara, pensaci te, ormai dai, ricordiamo tutto, quindi la nostra pagina Facebook, Enzino è già partito, ora cercherà le prime foto e così, allora lanciamo l'argomento di stasera, è un argomento che mi piace molto. No, scusa Sara, quella è l'autovelox che ti ha beccato, non usare quella foto settimana, ed è vero anche questa cosa, però non è che dobbiamo raccontare proprio tutto, però ringrazio del colpo della strega di Simone. Tra l'altro altri tipi di colpi. È venuto anche spettinato, bruttissimo. Sì, è per cosa questo che si è tagliato dopo i capelli. Cosa che non poteva succedere a Marcello, ma no, se vogliamo continuare tutta la sera effetti, solo le sopracciglia potevano essere, ma i nostri ospiti. No, ma sì, prima di dire i nostri ospiti, diciamo l'argomento, perché stasera, allora, ci riallacciamo un po' a quello che è stato il finale della scorsa puntata. In nostra compagnia c'è stato Giorgio Gervasi, abbiamo parlato di Luma quando siamo arrivati fino alla fine degli anni 70. Quindi stasera parleremo stasera parliamo allora degli anni 80. E quanto ci vorrà, Sara? Circa una decina d'anni. Sì, ma più che passano, diciamo che forse 6 o 7 anni ce la capiamo. Mese più, mese meno. Ma magari, ma e come ne parleremo? Usando il cavo orale mettendo dal diaframma. Bravo. E con chi ne parleremo? Con due ospiti che sono già qui tra noi. Chiaro, perché io è almeno 5 minuti che voglio presentare. Esatto, e questo è vero, che loro scalpitano. Dai, è il tuo momento. E a questo proposito, ragazzi, per fare le cose veramente in maniera eccezionale, vi farò presentare da Sara o da Enzo. Allora, fantastico. Abbiamo, ma fallo tu, Sara, che tu l'istituzione di questo programma sei te, fallo te. Va bene, allora diamo il benvenuto a Claudio Moretti. Detto pallino, bravo. Cominciamo a mettere le palline sulle i pallini sulle i, bene. E Marcello Tiezzi, detto Viafra. Bene, a posto. Soprannomi coniati, detto. Magari nei primi anni 80, forse per il pallino anche qualche anno prima, no? Sì, sin dalla nascita. Dalla nascita, proprio pallino. È di famiglia. È di famiglia, no, hai ragione. Palle di famiglia. Bene, chissà bene. Perché. No, ma lo scopriremo solo ascoltando. il prossimo brano. Ah no, esatto, il prossimo brano. Il prossimo brano lo sentiamo dopo e vai. Vai col traffico. Sobre la mesa, yo disparé, yo disparé. La grasa acumulada se ha convertido en lágrimas amargas. Arde Babel, arde Babel con sus torres de papel. Me han llamado 200 veces, no retroceden, siempre están ahí. ¿Quieres joderme? ¿Vas a joderme? ¿Quieres joderme? Pasa por mí. Cristales rotos bajo la alfombra, crecen ortigas en el jardín. Debí rondar un contenedor. Arde Babel, arde Babel. Botes de humo, guantes de cuero. Es abatido un ruiseñor. Yo disparé, arde Babel, arde Babel con sus torres de papel. Ha aparecido abandonada una mochila en una estación. Dime por qué, dime por qué. ¿Por qué tuvo que suceder? Dime por qué, dime por qué, dime por qué tuvo que suceder. Arde Babel, arde Babel, arde Babel con sus torres de papel. Direttamente da Pamplona arriva questo gruppo e il Columpio Asesino. Il brano che è ancora in sottofondo e sta sfumando è Babel. E anche questa si tratta di una new hit, perché l'album è uscito il 28 aprile e il nostro Simone ci segnala che se qualcuno dei nostri ascoltatori, Marzi mi guarda perplesso, il 6 giugno casualmente capitasse a Pamplona, forse un impegno, ma vedo di liberarmi, però. Dice che non si unisce. No, tra l'altro avevo capito gita. Atesino per... Vabbè, Asesino, in Alta Italia si fa sempre prima che a Pamplona. Però Pamplona, Pamplona è un posto che dice, dice che vale la pena. Sono stato. Quando? No, così. E ora non mi ricordo in che anno. Ma puoi dirlo, Marcello? Sei stato anche te, Marcello? No, però a San Sebastian. Anche a San Sebastian. Beh, sai, San Sebastian, Pamplona, Bilbao, Francia e Spagna. Basta che se magna. Tra l'altro, venendo da... Ma va, andiamo avanti, Sara. Venendo pensaci, da? Dalla Francia arrivi a San Sebastian... e via via, e via. Pamplona, cioè sali, risali e a Oporto ti la terza, non mi ricordo. Allora, quali sono, qual è la catena montuosa che divide la Francia dalla Spagna? Bollettino dei naviganti. Ragazzi, qualcuno lo deve sapere. I Pirenei. Allora, risalendo dai Pirenei dalla parte francese arrivi in cima, trovi l'oceano e giri a sinistra. Non che lo trovi in cima, Marzi. Certo, mi ricordo, preferivo di passaggio a nord-ovest e preferivo quello con Liscia Polò. Però se dobbiamo fare un programma in virtù dell'amicizia che ci lega, ma Abbiamo fatto un piccolo accenno alla Spagna perché poi ci torneremo, perché chiaro, c'è un aneddoto. Noi nelle nostre prove abbiamo fatto 6 ore di prove con i nostri ospiti, vero, confermati? Certo. Infatti si sono entrambi provati e quindi li abbiamo proprio, come dire, spolpati. Ma prima di venire a loro, ricordiamo l'argomento di stasera per chi si fosse magari sintonizzato soltanto adesso. Tratteremo degli anni Ottanta. Tra l'altro sono i miei anni, quindi me la sento proprio addosso questa puntata. Sì. Sì, no, specificalo, se no sì, sembra no, gli anni in cui sarebbero portati bene. Benissimo. No. Ma comunque sono gli anni benissimo. Miei di nascita. Okay, mi sono incartata da sola, quindi andrei avanti. Prego. Ricordando l'argomento, appunto, gli anni Ottanta, e il titolo che è stato dato a questa puntata è La Foiano da bere. Quindi, Marcello, cara Sara, veramente questo, l'argomento di questa sera mi prende particolarmente perché parliamo del decennio che in America è stato contraddistinto dall'edonismo reganiano e che a Foiano viene immediatamente dopo il periodo di Lumacons di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e che tanto interesse e successo ha avuto. Prima di parlare con i nostri ospiti, Claudio Moretti, ve lo ricordo, il Marcello pallino, Tiezzi, Biafra, cerchiamo di contestualizzare però e quindi di capire gli anni Ottanta come erano a Foiano. Sicuramente anche qua da noi i primi anni risentono del decennio presente che fu contraddistinto dal terrorismo e da movimenti di protesta, per cui ad inizio anni Ottanta il clima anche in paese era piuttosto dimesso. Poi, forse Forse proprio perché tutti erano stanchi di questo malumore generale, di questo lo gran morbo che tutti ci piglia. E bravo, anche a Foiano prende il sopravvento la voglia di divertirsi. Okay. Ma come? Ma dillo, ma su tutti il cubo di Rubik. Bravo, ma non c'è a Foiano dei concorsi. Ma a Foiano tuttora per il cubo di Rubik, sì, mi ricordo benissimo. Davvero? No. Ah, ecco. Io non ce l'ho mai fatto. Staccavo gli adesivi. Sì. Io all'inizio io invece smontavo proprio i dadi, i pezzettini, e poi lui mi fece capire che se staccavo l'adesivo facevo prima e funzionava così. Diciamo che allora, anche se alcuni strascichi se ne sono portati avanti per alcuni anni, comunque si iniziò a divertirsi. Iniziarono a divertirsi i ragazzi degli anni Ottanta. Perché poi ne parliamo in terza persona se questo riguarda anche noi, Ma perché siamo dei professionisti dell'etere e della radiofonia internazionale, quindi ci spersonalizziamo e decontestualizziamo la nostra persona. Ecco, e ma comunque meglio di noi. Basta, io meglio di noi lo racconteranno dopo il prossimo brano, che è una cosa meravigliosa, perché che iniziamo proprio a tuffarci nell'ambient anni 80 anni. Passeremo i microfoni e noi tre, io, Sara e Marzia, andiamo via e lasceremo Marcello e Claudio a parlare degli anni 80. Vedo delle facce entusiaste, meravigliose. Sì. Siete pronte? Orario, certo. Molto pronti, via. It's a lot, it's a lot like life. Let's play. it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life, it's a lot, it's a lot, it's a lot, master of servants, it's a lot, it's a lot, it's a lot, like life, it's a lot, and that's what's up here, you despise, control away fear, it's going to be fun, then this is the one. Depeche Mode, Master and Servants, questo è il brano che ci ha fatto tuffare nei mitici anni 80 e fuori onda ho sentito che Claudio... Il pallino. Il pallino, già ora imparerò anche no, a no, anche Claudio, chiamarlo no, con il soprannome. Claudio, hai visto proprio Depeche Mode Depeche a Bologna? Nel 84 a Bologna, sono stati anni pazzeschi perché tutti i più grandi della musica, da Prince, Michael Jackson... Simple Mind, Eurythmics, Talking Heads, visti tutti. Ma come senza una lira si partiva con l'autostop cercando di entrare a tutti i costi. Ma senza anche biglietto? No, biglietto si trovava lì, cioè soldi per il biglietto almeno quelli ci sapevano. Però era un divertimento assoluto. Ecco, questi per esempio dove li hai visti? Loro a Bologna. A Bologna, quindi in autostop. Sì, stanno andando. Beh, veramente altri tempi, ormai siamo già entrati dentro il discorso, ma solo sì. Il pensiero adesso di partire. No, ora non lo faresti mai più l'autostop. Allora era una cosa normale. Sì. Ma facciamo. Senti Marcello, con l'ho visto pensoso da in un angolo che stava già pensando alle cose. Parliamo fatte. Allora dell'autostop. Di Marcello, quante volte? Quanto tempo hai dovuto fare l'autostop? Tantissimo, è stato meraviglioso. E le tue mete quali erano? In che direzioni? Dove capitava? L'importante era andare lontano. E il bello è che tornavamo pure. Infatti siete ancora qua. Che era vecchio detto, roba che mangia, torna sempre. No, ma è vero. Guarda, noi avevamo preparato ovviamente un po' di domande che non so se riusciremo a fare, però una domanda che volevo farvi e che ovviamente non ricordo più perché altrimenti non sarei io era, aspetta te lo dico, intanto facciamo proprio un punto. Parliamo di Foiano degli anni 80 e Foiano nel contesto più generale, come veniva vissuto dai foianesi, che raccontateci qualche aneddoto, qualche ricordo particolare, qualche personaggio di quell'epoca, di quel momento. Per dire, Claudio aveva circa 20 anni, no? Negli anni 80, sì. I primi anni 80, insomma, quindi diciamo eri con una maturità sufficiente per poterti veramente divertire. Magari Marcello, i primi anni 80 l'hai vissuto un pochino più da ragazzo. Io ero piccolino. Non eri proprio piccolino, ero diciamo piccolino. Che avevi 15, 16 anni. 14, dai. Cominciamo a scendere con l'età che è meglio. Ecco, per esempio, i luoghi di ritrovo. I luoghi di ritrovo fino all'85 penso erano i Lumacons. Ecco, vedi dove siamo. La sera si ritrovava lì e poi dopo si andava sempre in giro. Invece noi più piccolini sì. Andavamo col come si dice, vivevamo sull'onda di quelli che erano dei disastri i più grandi di quello che non hanno combinato, non vi voglio dire quello che non hanno dovete combinato dircelo. No, ce lo direte come. E erano, vabbè, i nostri ritrovi a Foiano erano il viale dove poche persone, cioè solamente i più diciamo i peggio, ma detti in modo così bonario. Esatto. Sì, perché c'era anche una certa nomea, diciamo, sul viale in alcuni anni. La prima panchina del viale era riservata a noi. Nessuno aveva il coraggio di mettersi a sedere in quella panchina. Se vogliamo anche ricordare qualcuno, qualche nome di quelli che frequentavate, che facevano parte del di tutto quanto. Ce n'è tanti, da Renato, Walter, Vera, gente che c'è e non c'è più. Certo. Però si era tanto. E questa panchina che rappresentava? La prima era panchina del viale. La prima panchina sulla sinistra, guardando verso l'ospedale, giusto? Sotto le scuole elementari. Esatto, di fronte all'ex distributore. Davanti al Vespasiano. Eh sì, che c'era il Vespasiano. No, ah no, è vero. No, cioè, come no? No, il Vespasiano c'è stato fino a pochi anni fa, quindi. No, sì, nei primi anni 80 c'era già. Sì. Comunque non è Vespasiano, come segno, non me lo ricordo. Come posizione di potere potremmo anche approfondire questa cosa, era, però era un punto tra l'altro era importante. Era utile. E poi era un imperatore, quindi come si chiamava quello del primo distributore che gli si era sempre noi. Il soprannome era Pelucco. Anzi, Pilucco. Cioè, ma mio fratello andava da lui con la bottiglia del succo di frutta a fare il piano di gasolio per mettere le motorine. È vero, no, ora, tra l'altro era un antesignano del biocarburante, c'era anche il succo di frutta dentro, mescolava. Sì, va bene, io direi che è come introduzione a quei tempi, no, a quegli anni. Era un divertimento assoluto, si divertiva con poco, si viaggiava sempre in autostop con le macchine. E ci racconterai ora ci rituffiamo anche con la musica ancora meraviglioso, sì, sì, ancora di più dentro gli anni 80 e poi proseguiamo, ci raccontate un po' di cose, va bene? Benissimo. Quello che abbiamo appena ascoltato, forse il più conosciuto. Mi piace questo. No, ridiamo momento. Perché c'era. Va bene così. Dicevamo, forse il brano più conosciuto degli In Excess, ovvero Need You Tonight. Io ne avrei scelto un altro, ma questa. Ma questa quale tendenza... avresti scelto, Marzi? Te lo dico dopo. Sì, però, fai dire una cosa prima, Sara, prima di partire nelle tue elucubrazioni. No, volevo dire che ci è voluto 24 puntate. Ma questa playlist comincia a piacere, a garbarmi. Per quando andremo in ferie sarai contento. Va bene. Ma salutiamo perché questo è un momento importante. Salutiamo il nostro Paolo. Ciao Paolo. Sta facendo le riprese e quindi così vi ricordiamo anche che ci potete vedere sul nostro canale YouTube domani tarda mattinata. No, vedere pomeriggio, no, anche domani l'altro. Anche domani l'altro. Sì, perché ve li diamo un I po' alla volta. I problemi tecnici di Simone, proprio i problemi tecnici della schiena di Simone gli impediscono di fare cose, ma va bene, sì, va bene lo stesso. E poi comunque anche sulla nostra pagina Facebook vengono postati, certo, vari video, stanno riscuotendo un successo incredibile. Mi fa piacere anche rivedermi, peccato che in questi video ci sia ovviamente anche Marcello, ma purtroppo forse così sarà quello l'elemento del successo. E poi dalla prossima volta ci sarete anche voi, Claudio e Marcello. Dicevi, dici, di. No, no, ha detto, è la vita, è la vita. Oh, ma torniamo a noi. Gli anni 80 vissuti da Claudio, il Pallino, e Marcello, il Biafra, a Foiano della Chiana, e come sentiremo, mi sa, non solo. No, io mi ricordo, siccome a quell'epoca avevo comunque l'età della conoscenza, sì, ricordo ha che quegli anni poi persa. Cioè, vi rendete conto che erano gli anni di Dallas, di Ritorno al Futuro, Dynasty, del cubo di Rubik menzionato, delle di giacche... Rubik, perché era una rubrica, il cubo di Rubik, va bene, la volevo far passare di Goldrake così. E di Gigrobo, sì, allora, ma, ecco, come vivevate voi? Io lo so perché lo vivevo il io, il cubo, ma... di Rubik, il cubo, ecco, come vi proponevi, è andato. Non t'aiuto, un Dynasty e Dallas, perché c'è stato un periodo che c'è stato Claudio anche... guardavi Dallas o Dynasty? Dallas. Perché? Non lo so perché. Perché Bobby Ewing era meglio di Io lo guardavo perché lo guardava mia madre quando ecco, capitavo di l'educazione familiare, ecco, è importante quando capitavo, diciamo la verità. Stavate mai in casa? Assolutamente no. E quando si usciva nel 1983, per dire, dove si andava? Di anche il giorno. La prima cosa in pasticceria. Ecco. Ci si ritrovava lì e poi si organizzavano le serate. Ma per dire, voi siete mai stati promotori di eventi, tra virgolette, nel paese? Avete organizzato cose? No, c'è stato a metà degli anni 80 quando si è organizzato il Grass, famosissimo. Ricordiamoci un po': giovani riuniti, ambiente, arte e spettacolo. Non posso dire come mai venne questo nome. Ma se vuoi, no, se non lo puoi dire, non lo dire. È meglio di no. Ma che cosa facevate, per esempio? Non c'è. No, si organizzava queste feste. C'è stata la prima festa che si organizzò alla pista. Uh-huh. Che si fece ristorante, musica, spettacolo, e poi c'erano tanti disegni fatti da me e Simona del Francia, e l'altra non mi ricordo il nome. Vabbè, ma non importa, ricordiamo il fatto però che Claudio è un artista, ha anche esposto a Foiano ultimamente, e non solo, si diletta qualche sera d'inverno nel cantiere di Bombolo, e lo dico così, en passant, perché senza... non sei di parte. Perché no, non sono di parte, come d'altronde anche l'altro nostro ospite Marcello, che ci dà una mano durante il carnevale estivo, ma di questo ne parleremo in un'altra volta. Avanti. Mentre voi invece, Marcello, che facevate? Te che eri più giovane negli anni 80. Cioè uscivi la sera, dove sì, ritrovate voi? Uscivi. E noi, il nostro ritrovo era il Brandini. Ecco, vedi? Ah, il mitico Brandini, la Maria del Brandini è stata per noi una seconda madre. L'abbiamo fatta diventa matta quella donna. E poi da lì anche noi, da lì sono scesi giù, avevamo i motorini, prendevamo, andavamo in giro. C'erano dei locali che frequentavate principalmente? Il Mirage era, sì. E Jump. Ecco, infatti, anche secondo me Marcello era più del era più per il Jump. E che tra l'altro il Mirage tuttora credo sia ancora in attività, o fino a poco tempo. No, penso. Con un nome diverso, esatto. Una sera ogni tanto. E quali erano le serate per la discoteca? Per il sabato sera. No, la discoteca era il sabato sera. Non più la domenica pomeriggio, come ci raccontavano. Quello era Garibaldi. Ma qui si parla dei prima degli anni 80, giusto? Sì. Beh, comunque nei primi anni 80 c'era il jump funzionava la domenica pomeriggio, e quindi si faceva sabato sera, domenica pomeriggio e domenica sera. E domenica sera, la tripletta. Era tutto un divertimento. Prima ancora c'era un altro posticino che era un mito a Sinalunga, che era il Pidocchino. Mamma mia, è vero! Quello, perché anch'io inizio ad avere una certa età. Quello è stato i primi momenti di discoteca dei primi anni Ottanta. Sì. Pomeriggio, domenica pomeriggio. Domenica pomeriggio. Il Pidocchino. Pensa. Io ero già grande. Eri già grande. Però a voi, soprattutto a te, Claudio, ma ne parliamo dopo. Ti stava un po' stretta a Foiano, vero, negli anni Ottanta? Ma i primi anni Ottanta no, dopo sì. Dopo sì. Dopo sono partito Firenze, poi a fine anni 80, 88 si sono partito per l'Inghilterra. Ma non in autostop. No. No, in traghetto, chiaramente. Treno e traghetto, un viaggio infinito proprio. Ok, allora io direi che su Sara, questo dopo parliamo della Manica attraversata, sì, e della Spagna di Marcello, che ci sono aneddoti da raccontare. Intanto sai te? Antonello Venditti. No! Dal 1976. Meritiamo un'altra vita. solo di parole, ma tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore. Dubita per noi, stretti in libera sorte, violenti e teneri se vuoi, figli di una vecchia canzone. Antonello Venditti è penso una delle sue canzoni più famose, Sotto il segno dei pesci. C'è il vibrato, il vibrato. Sara. Ma perché? Perché mi ricollego subito a questa canzone. Fallo, ti perché prego. Voglio perché? Salutare Massimo, perché lui non sa che la sua mamma, Anna De Libero, okay, negli anni 80 regalava al suo negozio questa canzone, questo disco 45 disco, giri insieme a altri, esatto. E tutti i ricordi di un altro disco, Pata che... Pata di Miriam Makeba. E tutto il giorno io a casa in sala di nascosto da mia mamma, perché in sala non potevamo entrare, giusto? Con le pattine, bravo. E ascoltavo tutto il giorno pata pata. E quindi eravamo proprio agli albori del marketing assoluto, diciamo. Del supermarketing. Esatto, mi sembra indicato. Dobbiamo fare dei saluti. Sì, saluti. Facciamo dei saluti, sì. Dai. Allora ci penso io, sì, inizio, poi dopo. Allora, salutiamo innanzitutto Giada, ciao, che è la, Giada, che è la bimba di Marcello e che ci sta ascoltando, splendida Giada, e Simona. Certo. Siamo che vicini, la... Simona, coraggio. Che la compagna, ce la puoi fare. Benjo, mi dobbiamo anche salutare, siamo vicini anche a lui. E io volevo salutare invece Lulu, Sara e Valerio. Sara, ah no, scusa. No, è un altro. Poi ancora Marco, Valerio, un altro, Rachele, un'altra Sara. Oh, no, era quella che, scusa, vabbè, uguale. Edi, abbiamo già salutata. E aspetta che te ne dico ancora, Gabriele, Silvia, Alessandra, Alessio, Maria Rosaria, Paola e via. E via. Fantastico, e crescono i nostri seguaci. E ci abbiamo anche gli amici che sono oltre 350 ormai. Poc'anzi parlavamo di Foiano, dei nostri ospiti, che a un certo punto degli anni 80 si sono mossi, sono usciti dalle mura medievali del paese. Sì, perché probabilmente vi rimanevano strette e non bastava più, giusto? La voglia di vivere. La voglia di vivere. La voglia di vivere. Ecco, questo che abbiamo menzionato prima, questa voglia di ricominciare a fare. Sì. Claudio, raccontaci un attimo la tua esperienza. Gli anni 80 sono stati anni di divertimento, di spensieratezza, finto benessere, perché poi non era un benessere, però c'era tutto, è iniziata la moda, sono usciti i più grandi cantanti, gruppi che poi sono rimasti nella storia, c'era un'euforia nei giovani troppo forte. Al punto tale che te a un certo punto, verso la fine degli anni 80... sono partito per Londra. Per Londra. Raccontaci quando sei arrivato a Londra, i primi minuti di Londra. Guarda. Sono arrivato a Londra senza sapere una parola di inglese, preso il taxi per andare in questa casa che doveva essere la mia casa. Ah, tu avevi un biglietto con scritto... l'indirizzo, okay. Perché già c'erano degli amici che mi aspettavano. Sì. Non riuscivo a trovarla. Dico vabbè, busto alla prima porta, dico mi dirranno qual è la casa. Questo è incredibile, quello stai per alla dire. Alla porta mi apre Marcello Tietz, che è qui. Cioè, e lì tu Marcello eri a Londra. Ero già a Londra, che l'aspettavo. E lì il grande dubbio, sogno o sonnetto? Perché se sogno è un incubo. Che no. Ci facevi Marcello te? Noi eravamo partiti 20 giorni prima per fare l'Interrail in giro per l'Europa. Perché anche te Foiano ti rimaneva un po' stretto. Avevo finito il militare, avevo voglia un po' era di innamorato di divertirmi. Eccolo qua. Che meta bravo, bravo senza meta. Ecco, che avevi delle mete o andavi siamo un po' partiti allo sbaraglio. Siamo partiti in 5 amici di Foiano. Ecco, volevo dire scusa per i nostri radioascoltatori che è tutto finito bene perché siete qui. Siamo qui. Sì. Quindi mi dicevi, siete partiti in 5? Siamo partiti in 5, abbiamo fatto 2 o 3 tappe in giro per l'Europa e poi sapevo che chiaramente culturali, no? Sì, tant'è che la prima tappa era il museo Amsterdam. Sì, esatto. E non mi ricordo, vabbè, lascia. Era manifattura tabacchi, ma sua in olandese non sì. Secondo me di Amsterdam ti ricordi poco si veramente. Si chiamava Shiba, quindi, la manifattura tabacchi. È uno slang, no? Certo. È gergale. Poi siamo andati sapendo che Claudio arrivava a Londra, quale miglior una bella improvvisata. Però cioè tu praticamente gli hai fatto l'improvvisata, nel senso che lui non si aspettava di trovarti. No. Te dov'eri? Perché lui ha bussato lì? Come funziona? Perché io sapevo che lui sarebbe andato a abitare con altri amici. Io mi ero fatto dare l'indirizzo e quindi sono arrivato prima di lui. Esatto, 3 giorni prima. Che però quella non era la casa proprio dove saresti poi andata ad abitare? O era proprio quella? Era proprio quella. Ecco, perché la casa più brutta, schifosa che abbia mai visto in vita mia. E ci sei stato la bellezza di lì 3 mesi. E perché eri lì? Perché la Tiziana, la mia amica, l'aveva presa perché gli avevano detto che di fronte ci stava Terence Trentante. L'avete mai visto? Era partita di capo per mai. Cioè lei tutte le mattine stava. Però lei era innamorata di lui. Di Terence Trentante. E te mi dicevi fuori onda, Marcello, che ah no, forse Claudio, che forse una mattina ha visto la mano. Cioè lei era inconfondibile, meraviglioso. Dovrebbe essere di metallo, se non è, cioè, se è riconoscibilissimo. Cioè, c'è il timbro. Vabbè, io direi che è sempre più scusa, bello. Una ma tutto quello che quanto vuoi. Tempo gli c'è voluto a Claudio per riprendersi dalla paura, dallo shock di no, averti no, trovato sono bastati 5 minuti e 2 birre. Sì, perché siamo usciti subito. Eravate proprio vicino al centro, quindi no. Era al nord, sì, era già divisa in sì, zone si arrondisse manchia seconda zona, però diciamo che era una delle zone più tranquille di Londra. Ok, e quindi voi da lì andavate via subito a cercare le zone di Londra? No, sono loro che hanno portato un po' di loro sono andati via anche Tiziana e Luca, sono rimasto solo e ho trovato l'accommodation più bella della mia vita in Piccadilly Circus. Però perché lavoravo in una compagnia d'alberghi che l'accommodation era un albergo di 700 camere per il personale. Però di tutto il mondo, meraviglioso. Io i primi 6 mesi non sono mai uscito da quell'albergo. Beh, perché era una festa dopo quell'altra. Che bellezza, ragazzi. E questi che tempi storie. Non tornano, soprattutto io e te, Marcello. Cosa facevamo nel 1988? Dillo, tanto per dirne una. Dunque, io ricordo. Sì, te lo dico io. No. Tu, sai. Non te lo posso dire. Cioè, vabbè, comunque, veramente bello. Poco veramente di costruttivo. Raffrontata sì. Queste belle esperienze. Dopo continuiamo con un'altra esperienza di Marcello, invece, da un'altra parte d'Europa. Un altro paese europeo. Bellissimo, perché Fogliano si stava bene, ma mi sembra di capire, ma anche fuori si stava meglio. Nel Giappone delle Geishe piacere. Lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini. La tua pelle come un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Nuovo, questo è il brano di Franco Battiato, tratto dal disco La voce del padrone, che è proprio dei primissimi anni 80, 1981. Mi ricordo che io all'epoca cercavo un centro di gravità permanente. Anche provvisorio, non solo permanente. Ci stanno continuando a raccontare, sì. Perché poi tanto è sempre così, i nostri ospiti magari dicono: ma io fuori onda si possono vedere su YouTube, esatto, sulla nostra pagina, quindi Facebook. Tutto quello, no, tranquilli. Io non so niente da no problem. E appunto è sempre bello, perché poi vengono in mente episodi, cose varie, e appunto anche cose che non sempre si possono raccontare e che non racconteremo, che terremo per noi. Però c'era, prima di passare all'esperienza di Marcello in Spagna, c'era un'altra cosa che ci diceva fuori onda Claudio riguardo al giovedì sera a Londra. Sì, a Londra c'era un locale, si chiamava il Café de Paris, che facevano le selezioni, però noi italiani si era fortunati perché guardavano molto al vestire, e chi si vestiva elegante, firmato, loro le facevano passare subito. Io entravo sempre, entrava solo noi e neri, perché neri entravano dappertutto. Ah, ecco. Perché fisicati, quindi l'immagine era importante. Era bello perché ogni sera c'era da George Michael, Jimmy Somerville, Mark Almond. Quindi voglio dire, te considera che con Marcello noi, cioè, a Foiano è una cosa assurda, perché vedi queste persone che se eri in Italia lì erano persone normali che ballavano con noi, cioè, spettacolare. Vedi, Marzi, che cosa ci siamo persi, ma sì, è inutile, sì. No, questo fusca proprio i miei ricordi di quegli anni lì, che pensavi di esserti divertito. Certo, il mio massimo era venire in motorino in paese. Mentre invece Marcello l'altro giorno, parlando davanti a un bel bicchiere di chinotto, io corretto io no mi raccomando, non sia mai, ci raccontavi che sempre durante questo viaggio che passava per Londra, certo, sei arrivato in Spagna. Sì, perché ai tempi ero fidanzato con quella che poi sarebbe diventata la mia ex moglie, cioè sarebbe diventata moglie poi. Sì, che sarebbe diventata poi mia moglie, poi tu non prendere come ex marito. Però così, scherzando, ci siamo detti prima di partire: oh, sai che facciamo, ci troviamo a Barcellona il giorno tot, allora tot per la Ramblas. E io pensavo che la Ramblas fosse come via come Ricasoli a Foiano, via Ricasoli o via Cesare Battista. Da lì poi siamo partiti da Londra, ci siamo salutati con Claudio con immenso dolore, certo, immagino. Io no, perché finalmente avevo un letto. Quello non vi dico, quello che è successo. Siamo andati a Parigi, abbiamo fatto San Sebastian e poi Barcellona. Di cui, ok, perfetto. A Barcellona siamo arrivati e quindi si è detto, vabbè, il giorno tot era. Mancava l'ora tot, abbiamo aspettato l'ora e ci siamo detti, chissà se ci ritroviamo. Allora, esatta, ci siamo ritrovati con sulle questa... Ramblas, con sì, questa ragazza. Con questa ragazza. Voglio dire, per chi è stata a Barcellona, molti dei nostri ascoltatori sanno che le Ramblas sono 3 km, credo, sì, qualcosa del genere. Sì. Che vanno dal mare fino a Simone? Non me lo ricordo. Fino a 3 km di Catalunya. Hai visto che lo sai, ma io te volevo far fare. Hai colto impreparato. Cosa? E noi ci siamo ritrovati. E ti hanno ritrovati, ti hanno visto e ti hanno detto? Marci! Vedi, è come lo ciao e pizza, diventerà Marci un inno internazionale. Il Marci sta bene dappertutto. Sono d'accordo che con so, sul Campari, c'è troppo il migliore con una cera, con qualsiasi cosa. E però invece poi comunque alla fine tornavi sempre a Foiano. Sì, sì. A differenza di Claudio che c'è tornato anche lui, però dopo alcuni anni. No, secondo me Foiano è come in tutti i viaggi. Io un po' di mondo l'ho girato e devo essere sincero, quando da lontano torni da Roma o che sei stato in aereo, vedi Bettolle, dici guarda, giri a destra, vedi Foiano, il campanile di Foiano e dici sono a casa. Ma che bello, guarda, un'immagine. Se poi abbassi un po' lo sguardo vedi anche Piazza Alta. Ti salutiamo. Sì, sì, dalla finestra. Meraviglioso. Sono commosso, guarda. Guarda, anch'io. Te Claudio invece sei rimasto qualche anno in più, abbiamo detto, e poi sei ritornato negli anni 90, sì, presumo, sì. Nel 91. Nel 91, quindi gli anni 80 di cui parliamo stasera erano finiti alla grande. Proprio con orgoglio, l'ho finita alla grande in Inghilterra. E va bene, va bene. Io direi ragazzi che siamo a posto. Simone mi guarda sì, terrorizzato. Sì. Ok. Dice, sì, ci siamo. Sì, il problema sarà la prossima puntata con gli anni 90. Con gli anni 90, a questo punto ma quella sì, a seguire. Certo. Parleremo di oggi pomeriggio a un certo punto. Sì, parleremo del pomeriggio che stiamo trasmettendo. No, a parte scherzi. Sì. Anche Marzia aveva allora, da raccontare delle cose. Anche, sì, no, tante cose da dire, però mi farebbe piacere che chi noi abbiamo fatto una puntata con questo argomento, abbiamo avuto delle testimonianze, ma chi volesse condividere anche, non lo so, foto, pensieri, opere, omissioni, no, perché se sono omissioni non le vediamo, possono utilizzare tranquillamente la nostra pagina Facebook. Esatto. Allora, sì. E ci farebbe piacere perché potrebbe essere anche un po' una bacheca, un album di ricordi. E noi per esempio abbiamo pubblicato una foto che riassume un po' collage, tutti gli anni 80, vediamo, sia dai prodotti che andavano di più proprio come merendine, roba del genere, il famoso registratore con cui si registravano i giochini, si caricavano i giochini del VIC-20 e del Commodore, del Commodore 64. 64. Marcello aveva quella cosa più importante degli anni 80 è la moda. È la moda. Cioè, indiscutibilmente, sono nati i più grandi stilisti del mondo, sono nati negli anni 80. Vedi che noi siamo poveri, Marzi, noi Sasce, siamo tutti. Armani. Beh, sicuramente sono stati anni incredibili. Come dicevamo all'inizio, siamo partiti da degli anni bui, che erano gli anni 70, e la gente aveva voglia di. Sembrava una rinascita. Esatto. Gli anni 80 che sembrava fosse il benessere, che poi invece purtroppo ci siamo ritrovati agli siamo anni ritrovati, 2000 però, e vabbè, però sono contento di averli visti. Bravo, ok, perfetto. Certo. Bene ragazzi, ed ecco adesso che Sara prende la parola per chiudere, sì, in modo per chiudere istituzionale, in modo questa istituzionale puntata. Allora, intanto ricordiamo che la puntata si potrà riascoltare a partire da domani tarda mattina pomeriggio, ben pomeriggio. Da mattinata sulla nostra pagina Facebook, poi nei giorni successivi i video sul canale YouTube e basta. Mi sembra anche ringraziamo. Sì, ringraziamo i nostri ospiti, Marcello e Claudio. Ciao ragazzi. Il pallino e Biafra. A fine puntata sono quasi fatta. E un saluto a tutti i nostri ascoltatori e appuntamento a giovedì prossimo. Ciao, statemi bene. Ciao, ciao. Simpatici amici. Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino, alle riprese cinematografiche Paolo e alla conduzione tecnica Simone. Une.